Buonasera, nell'attesa che vengano firmati così gli ultimi libri, ne approfittavo per dare il benvenuto a tutti voi a questa nuova serata della Biblioteca Provinciale. Siamo in via Mendola 5, ma ogni settimana, lunedì e giovedì, ci troviamo qui al Centro Trevi, ogni tanto in questa sala, ogni tanto sotto. Abbiamo a disposizione più spazi per favorire l'incontro del pubblico con gli autori, con le autrici, oppure partecipare a delle iniziative comunque di aggregazione e di conoscenza. Una missione che cerchiamo di portare avanti da 15 anni con l'aiuto soprattutto degli autori e delle autrici. Come questa sera abbiamo con noi il professor Dobrila, che ringrazio della sua presenza e del fatto anche di pensare alla biblioteca come luogo deputato per presentare un libro. Ma non è solo un libro, quello che scrive il professor Dobrila è un messaggio alla società per informarsi, vivere informati. È quasi una controinformazione a questo punto, no? Fuori dagli schemi, ma che invita il cittadino ad operare delle scelte consapevoli per quello che è il proprio percorso anche di salute, oltre che di vita. E la biblioteca in questo è un luogo che per eccellenza si muove e si adopera perché l'informazione giunga a tutti quanti e soprattutto ognuno di noi abbia le occasioni nella vita di trovare e di costruirsi un percorso individuale all'insegna della libertà e dell'informazione. Ecco, quindi, a parte questo primo cappello introduttivo, volevo ricordare due iniziative della prossima settimana. Una sarà lunedì, un incontro con Adel Jabbar dedicato al tema dell'immigrazione, un tema quanto mai attuale. Il giovedì saremo invece all'ospedale di Bolzano, nel giardino d'inverno, dove verrà presentato un libro di Fumagalli, e parteciperemo a un'iniziativa donatori di musica insieme al dottor Claudio Greif. La biblioteca organizza anche ogni martedì nella propria sede in via Mendola 5 dei corsi per accedere alla piattaforma BiblioWeb. Sono gratuiti, possono iscriversi tutte le persone che hanno voglia di conoscere il mondo degli ebook, come scaricare un ebook, come leggere un giornale da una piattaforma digitale. Se vi interessa, rivolgetevi alla biblioteca e lasciate il vostro nome e indirizzo. Non dico altro, ringrazio il professor Giorgio Dobrila. Il nuovo libro ci ha incuriosito, ci ha stupito, ci ha meravigliato e soprattutto volevo sottolineare anche che c'è la prefazione di Piero Angela, quindi più che mai Giorgio Dobrila si muove in questo settore scientifico di alto livello, dove la diffusione della conoscenza viene anche certificata da membri del CICAP, vero? Ecco, quindi siamo proprio su due mondi completamente diversi rispetto a tante cose che circolano nel mondo anche con la connivenza dei media. Non dico altro, lascio subito la parola al professor Dobrila, che ringrazio ancora. Ci sono dei libri che la biblioteca ha raccolto in questi anni, catalogati, scritti dall'autore qui presente, ed altri libri che possono essere acquistati. Grazie. Vado qua per non intracciare la visione. Grazie a tutti di essere qui, grazie alla dottoressa Trevisan. E parlare in questa sede gestita con amore per la cultura, perché quello che sta facendo la biblioteca è incredibile, 2 o 3 volte alla settimana, veramente una cosa encomiabile. Per cui non è soltanto il piacere di parlare, ma di parlare in questa sede. Fatto questo è il libro, posto che questo funzioni. Ecco, Angela dice questo. Angela ho un'amicizia con Angela dal 2004, quando io vedevo del voi, non del lei, e per me era un mito. L'amicizia è nata nel tempo, da allora sono passati 14 anni e lui ha presentato questo il mio primo libro sul placebo nel 2004, che è stato una meraviglia perché guardavo la televisione per caso, quindi non c'è nessun tipo di consorteria. Quando ho visto questo libro, ha scritto questa frasetta che mi sembra lusingata un po' quel residuo di vanità che ho ancora, che quando si comincia a leggere verrebbe voglia di proseguire la lettura. Così è capitato a me, ma credo anche ai lettori. Questo mi ha dato un po' di corda e allora ho diviso, parlerò soltanto di un terzo, un quinto di quello che c'è nel libro, che era impossibile, ho diviso il libro in tematiche, alcune sono molto vicine alle altre, per cui un pezzo che sta nel primo settore potrebbe stare nel secondo, ma insomma c'è una linea di conduzione. Le cose che è meglio sapere e sulle quali riflettere come il pensatore. I bugiardini, l'ho fatta già vedere in biblioteca quando non era così ricca di spazio e quando c'era poche sedie anche, ma la rifaccio vedere nelle linee essenziali. Questa è una valutazione fatta da Annals Internal Medicine nel 2006, pensate 10 anni fa. Comprensibili i bugiardini, per i quali bisogna spesso essere armati di una lente di ingrandimento o di non aver perso gli occhiali, ma a parte la visibilità, il contenuto, dice questa inchiesta americana, e non credo che gli americani siano tanto più tonti degli italiani o degli europei, il 38% delle persone con poca cultura non li capisce, il 48%, quasi uno su due, delle persone di media cultura, i laureati la capiscono per il 73%. Vedo che il dottor Pizzetto in prima fila ride, ma così è, il che significa che il 27% delle persone avranno una scarsa compliance, termine medichese ma ormai in voga, che significa la capacità del paziente di seguire fedelmente le direttive del medico, ma se uno non capisce manco cosa c'è scritto avrà sicuramente una compliance scadente. Tenete conto che l'inefficienza di molte terapie è legata proprio alla scarsa compliance, parliamo anche di laureati. Allora viene istintivo a tutti, anche a sottoscritto quando ero un po' meno scafato, che se una cosa è in vendita vuol dire che qualche ente l'avrà controllata. Proprio un'ingenuità di proporzioni gigantesche. Allora, questa valutazione fatta da Galatini Bertelli, pubblicata su British Medical Journal, è stata allora l'approvazione della EMA, Agenzia Europea dei Medicinali, si chiamava una volta EMA, adesso si chiama EMA. Bene, questo è il succo. La partecipazione diretta delle ditte al documento che l'EMA fa. Quindi non lo fa un ente scientifico, lo fa le ditte che hanno partecipato alla produzione di quel farmaco. Nessuna traccia nei rapporti delle obiezioni che la commissione giudicatrice, anche critica, fa. Non sono riportate le obiezioni. Documenti originali non sono accessibili, è accessibile solo una sintesi. Tenete conto che la Food and Drug Administration, che è l'equivalente americano dell'EMA europeo, mette a disposizione dei controllori tutta la documentazione in toto, non una sintesi. Vantaggi rispetto ai farmaci esistenti non considerati. C'è un pullulare, come sapete in gergo, dei farmaci MeToo, cioè dei farmaci fotocopia. Cioè un cittadino vorrebbe sapere se un altro ipotensivo viene fuori, quell'ipotensivo che meriti anche vantaggi ha sui vecchi, avere una giustificazione di efficacia o di sicurezza. Tutto questo non c'è. Ho consultato Garattini un paio di mesi fa, quindi al telefono, e dal 2007 al 2016 lui è molto addentro a queste cose, anche dei controllori europei, e mi ha detto che non è cambiato assolutamente nulla. Quindi questo è il grado di trasparenza che noi possiamo ottenere con quello che ingurgitiamo come terapia. Allora poi c'è la rivoluzione del computer. Anche gli imbranati come me devono per forza usarlo, ma io ho un amico che è qui presente, che è il signor Cristiano Bacci, che mi aiuta nella mia ignoranza e quindi quando ho un problema me lo risolve. Bene, ha avuto molto successo non tanto in quelli bravi, ma in quelli poco bravi, che credono che basta fare un clic e si trova l'informazione giusta. Bene, stabilito che pensano di avere il farmaco subito, di averlo spedito a casa, di averlo dentro 24 ore, di avere una confezione discreta, cosa importante soprattutto per quelli che ordinano i farmaci con motivazioni sessuali per la maggiore potenza dei mascoli, è un risparmio evidente. Questo, se la rete fosse controllata a sua volta e potessimo essere tranquilli su quello che vediamo. Bene, vi faccio degli esempi clamorosi. Non per stupire, ma per informare. A me non piace stupire, ma mi piace però informare. Anche perché penso sempre che mia madre ci sarebbe cascata, mia zia Maria ci sarebbe cascata, quindi non vorrei che ci cascasse una mia. Bene, l'80% di 122, due terzi, di campioni di magnanti sono bloccati alla dogana, pericolosi e ritirati in tutto il mondo. Questi sono dati svizzeri. Poi se andate a vedere la mania di comprare cose esotiche, vi trovate di fronte al bugiardino che è scritto così, grande vantaggio, e al fatto che poi spesso dentro non si capisce cosa c'è. Questo tizio qua, questo farmaco qui, comprato in rete, la Linda Daidawa, ha dentro sibutramina, un anoressizzante che era usato fino a pochi anni fa, poi ritirato dal commercio per il trattamento dell'obesità, caffeine e metalli pesanti, è stata ritirata in tutto il mondo. Ma sibutramina come fame, già proibita per ben due volte nel 2010, siamo nel 2016, sono passati 6 anni, è in dosi cardiovascolarmente pericolose, presenti in rete anche in concentrazione tripla. Quindi con tutti i divieti io scrivo e mi faccio vedere, ma si vede 3 volte tanto più concentrata. L'aristolochia Fanchi, l'abbiamo denunciata insieme con la mia collega farmacologa Gabriella Coruzzi in un libretto ormai datato, era un dimagrante belga che è stato ritirato per l'alto rischio, parlo di 30-40% di possibilità di sviluppo di insufficienza renale e cancro renale. Poi è stato ritirato, ma in questi 5 anni, prima che venga ritirato, si sono state decine di morti e di insufficienza renale. Abbiamo valutato con la Coruzzi il contenuto in ginseng di 23 prodotti. Erano 23 prodotti tutti che magnificavano le proprietà taumaturgiche del ginseng. Bene, per 250 mg, quindi la dose comparabile di quantità, dentro c'era una variazione di sostanza da 0 a 7,6 mg. Quindi molti compravano roba che dentro non c'era niente, altri che c'era sempre. Quindi se anche fosse utile, che garanzia abbiamo da questa assoluta straordinaria variabilità di farmaci? Non vi dico i farmaci per insufficienza rettile, la gente che si è fregata comprando Viagra a buon prezzo, vi immaginate se la Viagra è venduta a buon prezzo, no? Passerà la fase del generico, ma allora il generico è sempre un farmaco, un signor farmaco. Questa è un'altra cosa che in qualche modo anche nelle ditte più serie aleggia nell'ufficio fantomatico del marketing, marketing con la M minuscola e con la K. Questo era il presidente una ventina d'anni fa della Merck Sharp & Dohme, che tutti conoscono, per una ditta straordinaria. Limitare il farmaco dei farmaci ai soli malati è un assurdo, è una monata, si direbbe a Trieste, perché i sani sono ovviamente molti di più. Allora, se riusciamo a convincere a curare anche i sani, che sono molti di più dei pochi, i forzieri dell'industria saranno dentro. Non tutti sono così spregiudicati, ma in fin dei conti è giusto anche che sia, il leitmotiv del marketing è quella di vendere. E quindi qualsiasi soluzione si trovi per vendere, un po', se non si arriva a questo tipo di drammatica decisione, si arriva però abbastanza vicino. E come si fa a vendere farmaci ai sani? Basta fargli credere che hanno qualcosa. E per certi conoscenti che a filo ci vuole niente per fargli credere che abbiano qualcosa, ma anche quelli meno scafati o meno portati a ritenersi malati, basta insinuargli il dubbio. Come? Enfatizzare un disturbo banale che non richiede esami. Ogni tanto mi prude il lobo dell'orecchio. Se si lascia stare, come se io comincio a dire, ti faccio un questionario, perché il lobo dell'orecchio che prude potrebbe essere un segno premonitore di eccetera eccetera. Viene dato un questionario, e già il fatto per l'uno che ha il prurito del lobo dell'orecchio di rispondere al questionario lo enfatizza, questo tipo aumenta le dimensioni di questo sospetto. Lasciare che l'intervistato cominci a considerarsi un po' paziente, etichettare disturbi banali col nome fatidico in medichese di sindrome, nessuno sa bene cosa vuol dire sindrome, no? Ma sindrome, è la sindrome. Invitare gli intervistati, poi questi il colmo, a rivolgersi a una catena di farmacie di fiducia in tutta Italia compiacenti che avranno dei preparati adatti per curare quel disturbo. Secondo capitolo, ripeto, c'è un quinto delle cose che troverete nel libro se qualcuno vorrà leggerlo, riguarda i farmaci come tali. Allora, questa è una cosa bella che il dottor Pizzecco conoscerà sicuro, è un collega. Il desiderio di prendere medicine è forse la più grande differenza tra l'uomo e l'animale. E a dirlo è stato William Osler, un medico franco-canadese famoso tempo fa. Qualcuno si ricorderà, se c'è qualche medico in sala, i noduli di Osler, che sono noduli reumatici, pseudoreumatici, all'inizio della vita. Bene, allora, l'uomo vitruviano saggio è lui che dice, lui lo chiamano sapiens, però lui prende un sacco di porcheria e io non prendo medicina. E a proposito di farmaci, una gentile signora che mi ha intervistato prima chiedendomi quale dovessi scegliere un argomento più urgente, forse più preoccupante, uno dei più preoccupanti è questo, l'abuso straordinario di antibiotici. Io su questo, nella mia piccolissima infame rubrichetta settimanale, ne avevo scritto almeno 10 volte, ma in tempi non sospetti 10 anni fa. Ma siccome la gente va a vedere il Grande Fratello, il medico non spiega, eccetera, eccetera, ci si dimentica che questo è un dramma mondiale che sta diventando di dimensioni drammatiche. Allora, gli antibiotici che dicono noi li distruggiamo e si rivolgono ai batteri, che effettivamente potrebbero essere anche distrutti, ma i batteri che rispondono sì, ma non tutti, perché i batteri non muoiono mai al 100%. Neanche con l'antibiotico più mirato. Ma poi ci sono i virus che dicono a noi certamente ci fa un baffo l'antibiotico. Infatti tutti i virus sono insensibili agli antibiotici. Prendere antibiotici per una malattia da virus, perché uno ha la febbre, raffreddore, eccetera, è non solo buttare via soldi, ma buttare dentro robe assolutamente inutili. Il paziente vuole illudersi di guarire subito, voi capite, una diarrea di antibiotici, se prendo i probiotici la guarisco in 3 giorni, se non li prendo la guarisco in 2 giorni e mezzo, che vantaggio sarà? Nulla. Dottore, medicina difensiva, il dottore non è da ironizzare e criticare, perché i medici di base o i medici del territorio, come il mio collega qui, sono oberati di cose che diventano sempre più burocratiche e hanno sempre meno tempo e devono giudicare nel breve volgere di una visita senza una TAC, senza un'ecografia, senza già giudicare. Allora cosa fanno? Per il poco tempo che c'è, qualcuno anche per insensibilità professionale, dà antibiotici per non essere accusato poi dal paziente di non averli dati quando correva, magari ci scappa il morto. Quindi questa è la medicina difensiva, che non è soltanto fatta di mediocrità del medico, anche di necessità che il medico ha sempre di più. L'efficacia dei batteri, vi dicevo, non è mai del 100%, ma il grave è che i batteri che si selezionano resistenti a questi primi antibiotici trasferiscono ereditariamente la resistenza alle generazioni successive, e in un anno sono migliaia di generazioni successive, quindi la resistenza viene trasmessa ereditariamente. Poi c'è un abuso assoluto di zootecnia e noi mangiamo con prodotti zootecnici, quindi noi abbiamo un abuso straordinario. Arriviamo finalmente, evidentemente Cameron e Obama non leggono la mia rubrica del martedì, e si sono accorti che questo è un dramma mondiale. Nel 2015 la Lorenzin dice, e finalmente lo dico senza ironia, ripetuti allarmi e ancora allarmi. Cameron dice Medioevo in arrivo senza nuovi antibiotici, e dopo dirò perché non arrivano. È 1 miliardo di dollari subito. Cittadinanza in genere poco attenta e consapevole, quindi un pochino è disinformata, ma un pochino è anche assente, perché a Grande Fratello fa sempre un plenum. ma se uno fa una serata e invita Garattini a fare una sull'abuso degli antibiotici, ci troviamo in tre cani. Non si fa ricerca sugli antibiotici perché gli antibiotici servono per guarire malattie acute, quindi l'enorme spesa per trovare fuori un antibiotico nuovo, tirar fuori un farmaco nuovo costa miliardi di vecchie lire. Deve esserci una ricaduta, l'industria non è una confraternita di benefattori, vuole studiare, spende, ma dopo vuole avere delle ricadute. L'antibiotico si usa per 2-3 giorni, l'industria è più portata a fare farmaci per le malattie croniche, che non guariscono mai. Quindi un'artrite reumatoide si fa tutta la vita, il morbo di Crohn sarà per tutta la vita. Quindi non c'è nessun interesse, oltre a difficoltà, non c'è nessun interesse di fare ricerca sugli antibiotici. Dice questo in un classico veneto, per me, e parliamo di placca di colesterolo nella popolazione, per me è meglio aver più paura del fumo e dell'ISIS che del colesterolo e di quel microbo Helicobacter che non mi ricordo mai il nome. Esperienza anche di Pizzecco è che mi vengono dei pazienti in ambulatorio che mi dicono: sai che ho paura di avere Helicobacter pylori, e fumano 40 sigarette al giorno, dove sul pacchetto c'è scritto: se fumi ti viene il cancro. Il cancro non frega niente, fumo 40, ma degli Helicobacter pylori si prova. Bene, il pericolo teorico e anche concreto in certi casi, una minoranza dei casi, è che si formi sta placca tra la parete di rivestimento che è fatta dall'endotelio e la placca di colesterolo, che pian piano riduce il calibro del vaso e magari si impregna di calcio, magari si rompe, eccetera. Allora, dovete sapere che non tanto recentemente, 20-30 anni fa, è nato l'iniziativa della Cochrane, dal nome del suo inventore. È una società not for profit canadese che si impegna costantemente a valutare tutta l'evidenza esistente nel mondo, senza preconcetti né pro né contro, valuta tutto e con un rigore metodologico assolutamente mai visto in precedenza, fa degli studi che sono in generale considerati rivoluzionari e attendibili soprattutto. Bene, nel 13 fa una meta-analisi di 27 studi che arrivano fino al 2009, quindi dal 2009 al 2016 siamo scoperti da questa review. Le statine, e dice questa review, c'è conferma che le statine riducono eventi cardiovascolari e mortalità complessiva, quindi non solo mortalità cardiovascolare, ma mortalità in generale, sensibilmente. E dice che converrebbe farli anche in over 50, anche se non hanno nessun rischio. Questo vale un po' per la spirinetta che mi chiedeva lei prima. Allora, nello stesso anno, un'altra rivista molto seria, che è il British Medical Journal, dice: fa rilevare che in questa analisi, che pure è fatto da una serio, gli sponsor di tutti gli studi erano i produttori di statine. Punto 2, i soggetti studiati non sono rappresentativi. Punto 3, gli effetti collaterali sono accennati o sminuiti. Le carenze di metodo sono sottostimate, una in particolare ve la segnalo che è un po' specialistica. Lo studio, fate conto, si comincia su 1000 pazienti, però 950 vanno via perché non sopportano il farmaco. Le conclusioni saranno simulate su 1000 pazienti e riguarderanno in realtà i 50 che sono rimasti dentro. Quindi i dropouts, quelli che sono andati via, che è una grave lacuna, comporta un errore sistematico che inficia moltissimo le conclusioni dello studio. Questa qua, sempre il British, stima degli effetti collaterali, non deve essere compito, questo mi pare ovvio, del produttore di statine. Non devi dare il giudizio sul salame al salumaio che lo vende, devi dare un giudizio altri tuoi che sono andati a comprare. Bene, quando si prendono in considerazione studi indipendenti non rientranti nella review della Cochrane Library, si trova che in 18-20% dei trattati, 18-20%, c'è sofferenza muscolare, qualche volta grave come vedremo, sofferenza epatica, diabete mellito, quello di primo tipo, cataratta stanchezza, scusate, e disfunzioni sessuali. Alla fine l'editor, che è una donna del British molto seria, molto competente, dice: ma scherziamo, statine a tutti quelli che superano i 50 anni, ma neanche da parlare. A meno che, questo ovvio, non io sparo contro le statine, sparo contro le statine assunte in dose più o meno rilevante quando non ce n'è assolutamente bisogno, perché gli effetti soprattutto sul muscolo sono tali che in una frequenza dell'un per mille, posso sbagliare di qualche centinaio, si sviluppa una miopatia autoimmune alle statine che è una brutta bestia per il resto della vita. Per essere onesto vi dirò che nel 2016 in questo tipo di articolo qui, interpretazione dell'evidenza, dell'efficacia e della sicurezza, si ridimensiona, si recupera un po' di fiducia, si è meno severi che prima, e siamo 3 anni dopo, ed è fatta su una rivista di 300 trial per 250.000 pazienti. L'1% dei trattati evitano in 5 anni un secondo evento cardiovascolare, vuol dire che uno l'hanno già avuto. In 5% dei trattati evitano in 5 anni un evento primario, quindi uno in 5 anni. E intanto per gli altri, il 99, si stanno beccando delle statine che hanno una sua tossicità. Gli effetti collaterali sono, osservati da questa review, la rabdomiolisi, cioè lo spappolamento di muscoli, anche il muscolo cardiaco è un muscolo striato come i muscoli volontari, diabete mellito 50-100 casi in 50, insomma non tanti, ma il problema è accetto anche un rischio se i vantaggi che mi dà il farmaco sono obiettivi, allora corro anche dei rischi, non è possibile avere tutto nella vita, no? Però il colmo è avere anche un solo effetto collaterale quando assumo un farmaco che non occorre che io lo assuma. Quindi le valutazioni precedenti del 2013 rimangono valide. Fallo, cioè fa la cura con statina, solo quando è necessaria. E allora è sacrosanta, devi farla alle dosi bene. Perché come sempre noi, soprattutto italiani, è considerata la dose 40, ma mi trovo 20, mi trovo 1000 tutti i giorni. Quando facevo il medico condotto trovavamo vetrine di farmaci non presi e in orari diversi, quindi devono occorrere, e allora quando occorrono magari occorrono dosi maggiori, ma spesso non occorrono e va valutato individuo per individuo. Arriviamo all'altro miracolo, il miracolo dell'acido ialuronico. Allora l'acido ialuronico è uno zucchero sostanzialmente, una componente delle cartilagini dappertutto, quindi anche nella cartilagine delle ginocchia. 3 università, fatte poi da equip di ortopedia che controllano se stessi, dicono, arrivano a queste conclusioni, 2015, l'efficacia è dubbia, fugace e non meglio del placebo. Allora se non è meglio il placebo perché devo prendere una roba che costa 30 euro? Allora prendo una parte tenere del pane o una robina di zucchero. Non è dimostrata nessuna efficacia in giovani con artrite lieve. No, non va dato in allergici perché è una sostanza allergizzante, in età pediatrica e in donne incinte. Costa molto. Verifica, si dice al massimo, fate una verifica a 6 mesi, se non funziona lasciate perdere. Io dubito anche che sia giusto questa verifica a 6 mesi, perché quello che è vero, tutto quello che c'è sopra, questo non è vero. Il consenso to cure all'acido ialuronico intraarticolare per ora non è giustificato, di media. Poi qualcuno potrebbe averne anche bisogno particolare, ma allora non sarà lo stesso soggetto che mi fa male il ginocchio, va dal medico e se lo fa dare. Sto parlando delle infiltrazioni anche. Sto parlando delle infiltrazioni. Beh, ma per bocca ancora peggio, signora. Le infiltrazioni vanno a finire in un certo posto, quello che vede per bocca va nella nell'occhio, nell'unghia, nel pollice. Sì. Questo non mi soffermo ovviamente, credo che i media siamo tutti al di là della possibilità di restare gravidi, ma siccome faccio un cenno solo per dire che c'è una grande confusione, anche da un punto di vista morale, tra uso di pillole anticoncezionali e di uso di pillola una sola abortiva. Queste 3, la classica pillola anticoncezionale, la pillola del giorno dopo e la pillola dei 5 giorni dopo, sono anticoncezionali. Il mifepristone o famigerato RU486 invece è abortivo. Su questo, a prescindere da considerazioni etiche doverose, perché fa specie, non possiamo pensare per esempio di creare ad arte un embrione per poi studiarlo. problema semmai è, c'è già l'embrione, cosa faccio? Lo butto una spazzatura o lo sfrutto? Ma però ci sono delle cose. Bene, allora può essere studiato con ottica medica, religiosa e politica. Cosa succede? Che in effetti queste robe si embrionano fuori un casino della Madonna. E guardate che si traduce in questa bellissima diapositiva. Allora, la destra in maggioranza si è dichiarata contraria, ma in minoranza è favorevole. La sinistra in maggioranza favorevole, ma in una minoranza contraria. L'onorevole Mantovano, questi qua sono tutti dello stesso partito, dell'ex Partito della Libertà. Mantovano è un pesticida umano, è una sconfitta delle civiltà. La Meloni, meno invasiva è la prova, la pillola, il mefipristone di un intervento chirurgico, quindi favorevole. La Prestigiacomo, ex PDL, favorevole, però il controllo ospedaliero. L'ex Cichito, questo per chi pensasse che le donne ragionano diversamente, no, Cichito è un maschione come Mantovano e trova che è favorevole perché l'AIFA, che è stata poi formulata sul consiglio di quell'amministrazione di allora politica, è degna di fiducia. Il Vaticano, per motivi che non sono medici, è contrario a questo, ma questo è un altro discorso. Ma che c'entra Nicole Kidman? Qui la vedete in una fantastica e conturbante film che è Eyes Wide Shut, dal titolo intraducibile. Lei l'ha fatto con suo marito, si sposavano nudi insieme, non erano sposati, quindi nulla da dire. E c'entra con la fecondazione assistita, perché come sapete lei si è divorziata da Tom Cruise e ha fatto una fecondazione assistita. Su questo c'è poca idea. Ricordiamoci in cosa consiste, solamente così per ragioni culturali, non per noi, ma magari per i nostri figli o i nipoti, eccetera. La fecondazione assistita vuol dire che c'è sotto controllo microscopico un incontro tra lo spermatozoo o spermio e l'ovulo. Lo spermio e ovulo sono da genitori biologici e allora la fecondazione si chiama omologa. Se i genitori donatori sono da un soggetto esterno, si chiama eterologo. Le due tecniche, tanto come elemento culturale, non è importante come concetto, questa si fa incontrare proprio fisicamente lo spermio che corre e entra dentro nell'ovulo. In questo altro caso nell'ovulo si inietta dentro lo spermo con una siringa, ma è la stessa cosa perché l'ovulo resta fecondato nell'uno e nell'altro caso. Il problema è che adesso si è ammessa per legge anche l'eterologa, ma fino a pochi mesi fa era ammessa soltanto l'omologa. Allora, le conseguenze sono queste, come sempre, come per tutto, che chi ha i soldi va a farsela fare in un'altra parte, ma non occorre andare tanto lontano. Va in Spagna, paese cattolico come il nostro, va nella Repubblica, nella Svizzera, va nella Repubblica Ceca. Questo turismo riproduttivo continua ancora anche oggi, che è possibile avere l'eterologa anche in Italia. Fra l'altro questa zona, la provincia di Bolzano, ha soprattutto nel centro di Brunico, ma anche in ospedale, un ottimo centro antesiniano che faceva probabilmente anche l'eterologa senza pubblicizzarla, ma che adesso lo può fare. Questo turismo riproduttivo è strano perché nonostante si possa fare anche in Italia, di 4.000 turisti di fecondazione all'anno solo 2 vanno per fare l'eterologa. Quindi potrebbero benissimo farli tutti qua. E costa naturalmente parecchio e ormai è legale. E anche in questo caso è il poveraccio ha possibilità significativamente meno dell'altro. Arriviamo ai trapianti. A parte questo criminale che ha ancora spazio nei media, Sergio Canavero, che dice che si può trapiantare il cervello e fa di tutto per farsi sponsorizzare, dice che lo farà in qualche paese, non so, in Corea del Sud, del Nord forse. Non si può, perché non si potrà mai arrivare alla decisione di trasferire l'affettività, l'emotività, la passionalità trasformando il cervello. Perché il conto dell'arco è il cervello, se dimentico il mio cervello, tu diventi me, eccetera. Quindi lasciamo stare perché soltanto, ma ancora va, 2 mesi fa, ancora va sulla toccare che è stata roba, è 3 anni che l'ha preso. Trapiantiamo tutto, a parte questo. La cornea è più facile, perché la cornea è la più facile perché è un tessuto non sanguificato, quindi non c'è pericolo di rigetto. La cornea non è sanguificata, non ha ematizzazione. Trapiantiamo cuore, polmoni, fegato, reni, intestino tenue, perché vuol dire insieme anche, cardiopolmoni si possono fare insieme, il midollo, non il midollo spinale nervoso, il midollo osseo, e la cute, anche questo ormai largamente usato, eccetera. Trapiantiamo vasi sanguigni, trapiantiamo solo braccia o solo gambe o mani e braccia. È stata una rivoluzione questa, perché sembra un po', fa un po' di raccapriccio pensare, però se pensate, nonostante il lecito trapianto cardiaco di Barnard, che è stato scorretto sotto il profilo etico, perché ha rubato la primizia agli americani che già potevano farlo, ma non l'hanno fatto perché non erano ancora in possesso di un materiale che impedisse il rigetto, e correttamente aspettavano prima di tirare fuori il farmaco antirigetto e poi di farla. Lui ha andato a imparare la tecnica, sottolineata, voleva arrivare prima e ci è arrivato. A parte questo risvolto, però, ha aperto una strada straordinaria, ma che deve essere valutata sempre con semplicità e onestà. Allora, questo avrà un problema, gli mancano tutti e due gli arti, questa le mancano veloce anche, tutte e due le gambe, e questo gli manca braccia e gambe. Allora, questi qui li trapiantiamo? Sono meritevoli di trapianto? Sempre restando che comunque il consenso informato è obbligatorio, no? Se no arriviamo ai nazi o alla Ilse Koch che faceva i paralume con la cute della gente, no? Però anche se lo implorano questo trapianto e danno un consenso informato scritto, va fatto. Guardate cosa è successo in Turchia. Turco di 27 anni perde tutti e quattro gli arti per folgorazione, richiede, implora e dà il consenso informato, e allora a questa università di Ankara l'intervento viene fatto, dura 24 ore, cioè uno in sala operatoria in un'estesia protratta per 24 ore, un multi-team di 53 specialisti che si alternano di volta in volta, trapianto di un arto alla volta ovviamente, tecnica viene ritenuta riuscita ma è morto. Decesso pochi giorni dopo, per motivi cardiovascolari e per motivi metabolici, il paziente è morto. Allora, le scelte del paziente, pur richiedente, pur consenziente al trapianto, vanno rispettate sì, ma quando il successo è decisamente più probabile del decesso, perché altrimenti è un esercizio di tecnica che viene giudicato un successo, perché suscita a suturare tutto per il paziente morto dopo aver sofferto per 24 ore, perché voi sapete che un po' la sofferenza anche in soggetti anestetizzati resta dentro nella testa. Ossigeno iperbarica, ne tratto perché quasi nessuno, mi alzate il braccio, chissà che esiste a Bolzano un servizio di medicina iperbarica? Beh, tanti, pensavo meno. Bene, esiste. Cos'è questa medicina iperbarica? Può essere fatta in multisala o può essere fatta in sala singola. C'è stato anni fa, qualcuno se lo ricorderà, un incidente clamoroso, è scoppiata una camera iperbarica, sono morti tutti, quindi minimo di rischio c'è, ma soccorre ancora. Bene, cosa serve questa iperbarica, cioè sto ossigeno ad alta pressione che circola in questa sala o nella sala monopersone? Fa sì che l'ossigeno che arriva ai tessuti aumenta vertiginosamente rispetto a quella miseria di ossigeno, miseria fra virgolette, che ci arriva dalla emoglobina di globuli rossi. Questo è un globulo rosso, dentro c'è l'emoglobina attacca l'ossigeno, quando i globuli rossi vanno nei vari distretti, mollano per ragioni personali, mollano l'ossigeno. Però è troppo poco in certe situazioni. Allora bisogna che in queste situazioni, che probabilmente si avvantaggerebbero di un eccesso di ossigenazione, se ne dia in abbondanza. Infatti l'ossigeno puro erogato è una persona, è quello che vedete negli ospedali che respira ossigeno, quello respira ossigeno atmosferico, due o tre volte superiore a quella atmosferica. L'ossigeno disciolto nel sangue perviene ai tessuti in modo molto maggiore rispetto a quello che li verrebbero con i globuli rossi. Quali sono le condizioni concettuali? Perché studi controllati mancano, perché è difficile avere studi controllati su soggetti che tutto sommato rappresentano una minoranza. Per accogliere 2000 soggetti che abbiano bisogno di cambiare per varie, bisogna aspettare anni. Allora, uno è la classica malattia dei cassoni, che non è tanto per dare ossigeno, ma per far ritornare allo stato gassoso l'azoto. Però quella salva vita, il sub che ha un'ascesa troppo rapida senza seguire delle norme, ma anche in chi segue le norme. Bene. Quindi è un vantaggio sicuramente per certe situazioni. Interessante questo, la durata di una seduta dai 30 ai 60, 70 centri in Italia verso 500 centri in USA. Anche qui potrebbe essere che l'Italia è più povera e l'America è più ricca, però andiamo a vedere se la ricchezza c'entra in Italia. Lombardia 4 centri, Calabria 18 centri. No, evidentemente qui c'è qualcuno che ciurla nel manico. Bolzano un centro, ve l'ho già detto, questo è sicuramente assodato che fa anche le intossicazioni del sotterraneo, stufe, tubi, scappamento e cisterne. È probabile, ma non è ultra documentato, ma se non ci sono pericoli questa volta vale la pena di correre il rischio, che possa servire in anemie gravi, perché lì c'è bisogno di un ossigeno che non c'è, i politraumi, le ulcere infetti di parti molle, gangrene varie, l'osteomielite, l'osteonecrosi, la retinopatia e la colite pseudomembranosa. Quindi siccome il rischio in coloro che se non scoppia la sala è zero, anche nella mancanza di un'evidenza precisa vale la pena in queste situazioni di ricorrere, visto che il centro è funzionante. Arriviamo all'atrofia artroscopica del ginocchio. Voi guardate cos'è il ginocchio. È una capsulina grande come questa che vedete. E dentro questa capsulina, in questo ginocchio, vanno cacciati questi tre tubi, che non sono proprio un gelato alla crema. Ma anche qui non fa niente, se occorre si fa. Non è contro la tecnica. È contro la tecnica fatta quando non serve. Allora, se in università USA, in equipe ortopediche di altissimo livello, decidono di controllare se stessi. Sono 330 pazienti, metà seguirà l'asportazione artroscopica di menisco e frammenti e 169 saranno trattati da specialisti del ginocchio, ma non fisioterapisti quasi. Fisioterapisti che per anni sono diventati esperti solo di manipolazione del ginocchio, quindi è una selezione di colleghi molto qualificata. A 6 a 12 mesi, attraverso una scala che consente di fare una valutazione quantitativa, il punteggio di quelli operati è 20, il punteggio di quelli non operati è di 18,5. Allora dice, ma se è la stessa cosa, perché mi devo far bucare un ginocchio? Anche perché non tutte le ciambelle riescono col buco. Uno su 10.000 estrazioni dentarie, se non si sa che è remofilico, ci lascia il pelo. Artroscopia, non trattamento di prima scelta, ma valutazione opportuna, benemerita, ma caso per caso, non perché hai mega detto, ma hai detto quella del piano di sole che ha fatto una letto per diventare comune. Ricordiamoci che tucur no, ma va interpretato e valutato e deciso soggetto per soggetto. Arriviamo alle vaccinazioni. Come sapete, anche da ieri alcuni nostri politici sono scambiati, molto esperti di vaccinazioni, hanno fatto degli articoli sulle cose. L'avete letto ieri, oggi c'è anche un fondo di cammino su questo. Allora, merita di essere guardato e ricordato questo Edward Jenner, medico condotto del 1700 e tanti, che siccome non c'era tante robe, non avevamo diafanoscopi e risonanze, si stava più attenti alla malata e si era più colti anche in fitoterapia. Si accorge che nelle mungitrici di vacche affette dal vaiolo vaccino si producevano queste vescicole, queste pustole, e si accorgeva che quelle che mungevano le vacche non ammalavano di vaiolo. Allora gli viene l'idea che forse i virus sono simili e se conviene forse vaccinare, allora non si chiamava ancora vaccinare, iniettare materiale pustoloso in soggetti che non avevano preso malattie, forse si riusciva a evitare che diventassero vaiolosi. 20 milioni di morti di vaiolo in poco tempo, fino a pochi anni fa. 2 milioni di morti ancora nel 67, quindi pochissimo fa. 2 milioni di morti è 20-30 volte la popolazione italiana. Allora, perché c'è questa resistenza criminosa? Non è una questione di secondo i dati dell'evidenza. Il vaiolo vaccinato è stato decretato finito, scomparso dalla terra nel 1979. L'epatite, la poliomielite è quasi scomparsa e non è scomparsa del tutto perché non tutti si sono fatti vaccinare. È considerabile utile che la vaccinazione, per essere efficace, superi il 95% dei vaccinati. Ma una volta eravamo sensibilizzati, quando io ero al liceo, eccetera, non c'era giorno, non c'era settimana che non vedessimo per la strada gente così. qui in era non la vedevo, Triesti neri non c'era ancora, ma avevo una bella bionda in queste condizioni, guardate l'alto di questo, guardate questo, guardate la differenza dei piedi di un adolescente con i piedi sulla sabbia, alla stessa età, quello poliomielitico è questo, quello normale. Per trovare una fotografia di uno morto di vaiolo ho fatto una fatica immane anche in rete e vi produco quella perché non ce n'è più, non ci sono. Allora non vediamo, non ci rendiamo conto che se non è stata debellata del tutto, questa è una malattia a larghissimo contagio, a larghissima diffusione. E viene questo bel busto, purtroppo, caro Tony Pizzecco, è un nostro collega, si chiama Andrew Wakefield, il quale dice a un certo punto nel 1998 e pubblica, dopo vedremo in modo assolutamente fraudolento, che l'autismo dei bambini è provocato dal vaccino trivalente. Lancet, che è una rivista seria, resta un po' perplessa, ma di fronte ai dati oggettivi pubblica. Calo del mercato in quell'anno in cui ha pubblicato, quindi siamo nel 1998, poco tempo fa, da 56 casi di morbillo siamo passati nel 1900 a 1348 casi. Nell'arco di un'annata si è avuto un'ascesa bestiale di morbillo. L'ordine dei medici dell'Inghilterra lo radia immediatamente dalla cosa, anche per esperimenti illeciti su bambini, e risulta che lui prendeva tangenti da avvocati che lo spronavano a fare causa all'ospedale, una class action ante litteram, per fare. Nel 10 anni dopo la rivista seria pubblica un articolo, si scusa perché si è accettato di pubblicare dei dati fraudolenti, e 12 dei 15 coautori del 98 riconoscono, sottoscrivono un documento in cui riconoscono la falsità dei dati che hanno pubblicato. Ora già questo basterebbe, ma non ancora, siccome ogni volta c'è questa cosa fuori per le orecchie questa roba qua. Nel 2015 c'è uno studio su JAMA, giornale dell'Associazione Medica Americana, molto autorevole, non su 2-3 casi, non sui casi del Salentino, su 95.000 bambini, studio sponsorizzato da 2 istituti della salute integerri, 2 indipendenti. Tra vaccini e autismo, ennesima smentita della correlazione, ennesima riconferma dell'esistenza di alcun rapporto tra vaccini e autismo. Uno dice, ma allora è finito, no? Non è finito, perché il giudice di gola di Leo del 2014, lo dico soprattutto per il nostro amico avvocato che sta guardando con attenzione, e dice che è acclarato nel 14, questo dice lui nel 14, un giudice che si occupa di giurisprudenza dice che è acclarato un nesso causale e impone un risarcimento per autismo a una famiglia in cui il bambino è diventato. Che volete che vi dica? Arriviamo, questa recente non c'è nel libro perché non c'era ancora, voi sapete che De Niro, che ha un po' di figli adottivi, 3-4 non so, o qualcuno naturale, qualcuno adottivo, ha un figlio autistico emotivamente coinvolto, sponsorizza questo e vuole fare il film. Questo film, attraverso degli irresponsabili, doveva essere proiettato in sede istituzionale, in Parlamento, in un'aula del Parlamento, non nel circolo di fanatici delle medicine alternative. In Parlamento, voi capite che se una roba viene fuori in una sala di Parlamento e viene qua, tutti quanti pensiamo che abbia un minimo di validità. Le reazioni scientifiche, non solo italiane, fanno sì che è stato assolutamente frenato, non è stato impedito la proiezione di questo film, che sarà però proiettato in altre sale di Roma, ma questo è un affare diverso, si dovrebbe intervenire secondo me sanzionalmente, ma non si fa. E lui stesso ha ritirato il film dalla Tribeca, dal Festival di Tribeca. Allora, tornando alla vaccinazione, invece un problema più civile e più serio è quello di dire ma devono essere proprio obbligate o no? E c'è il 90% le ritengono obbligate, il 10% sono più possibilisti. La Regione Veneto, per esempio, ha adottato un approccio più largo. La soluzione più civile credo che sia questa proponiata da Gargani, che è stato un microbiologo insigne dell'Università di Firenze. Per le malattie a contagio interumano bisogna tutelare il paziente con l'obbligo della vaccinazione. E la stessa cosa, violiamo la libertà del cittadino anche quando c'è un'infezione a bordo e la nave deve stare in quarantena. Si viola la libertà, la nave non può attraccare, ma tutela della popolazione generale. Questo a tutela della popolazione generale, perché il non vaccinato danneggia non solo se stesso ma gli altri. Quindi per la poliomielite, per esempio, sicuramente obbligatoria, non parliamo della trivalente. Per gli esami, per le malattie a contagio non interumano, che sono diventate sempre meno presenti, il tetano, l'infezione, quello è lasciato alla facoltà, anche dipenderà se uno fa il bigliettaro all'autostrada, non quello che si vaccini, quello che è il contadino che lavora con la banca in terreni sospetti si vaccinerà, quello, ma questo riguarda invece tutta la comunità. Medicina e società. Queste cose mi sono costate anche moralmente, mi documentavo. Allora, guardate la definizione dell'OMS che cito ogni tanto perché è straordinariamente bella. Stato, cos'è salute? È uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. Ma allora come faranno a essere in salute quelli che magari non hanno la malattia, ma c'è una disuguaglianza sociale che li caratterizza, una difficoltà di sopravvivenza, pesante un clochard, soprusi quotidiani e emarginazione? Quindi o quella, abbiamo fatto quella definizione perché ci crediamo, cattolici, buddisti, orientalisti, quello che volete. In America, per esempio, un paese plurietnico come nessun altro, la differenza in mortalità sotto i 50 tra bianchi e neri è del 50%. Quindi questo tipo di discorso, per essere rispettato, deve considerarlo, tutti uguali non saremo mai. Edmondo De Amicis dovrebbe essere arrestato perché ci ha presentato un mondo che non esiste, ma non esiste neanche che uno muoia, perché come vedrete nella diapositiva successiva si muore nei territori afroasiati, si muore per una unghia incarnita. La chirurgia è negata per 5 miliardi di persone su 7. Non qualche uno, 5 miliardi su 7. 2015 anche semplicissimi sono impossibili per 5 miliardi. Il Lancet ha calcolato, ha pubblicato morti per appendicite, fratture, parto cesareo e ascessi, patologie banali sostanzialmente, si muore di più che per le morti complessive di AIDS, malaria e TBC. E voi sapete che la malaria comporta milioni di morti. Pizzeco, che va spesso a fare del bene in aree povere, lo sa meglio di me. La tubercolosi sapete che sta rifiorendo, e sta rifiorendo soprattutto la tubercolosi ultrarefrattaria, che non risponde a farmaci antitubercolari. I costi di intervento per queste porchette piccolezze piccole, costi di intervento non sono affrontabili, non da qualcuno, dal 90% di quei 50, di quei 5 miliardi. I chirurghi sono circa 100 ogni 100.000 nei paesi occidentali, una media. Sono 1,7 nel Bangladesh e 0,1 in Sierra Leone. Ora, è chiaro che sono problemi che non possiamo risolvere noi, ma possiamo almeno sapere che esistono ed essere un momento più sensibili quando ci lamentiamo che non abbiamo ancora l'iPhone dell'ultimo modello. Qui, per risolvere, basterebbero 400 miliardi di dollari, che sono sicuramente spesi per fare le guerre. Perché sparare con il Patriot che costa, però questi soldi per questo motivo non si spenderanno mai. E allora il cartello dell'ottimismo lo cancelliamo e ci teniamo a quello del pessimismo. Medicina e magistratura, non mi soffermo, ne abbiamo già parlato altre volte, ma ne abbiamo parlato fino al 2014-15. Allora vi voglio dire che questo signore qui, questo impostore non laureato in medicina, bugiardo, è stato condannato nel 15 per associazione per delinquere, truffa, abuso di professione medica, diffamazione, sostituzione di persona, farmaci diversi da dichiarato, commercio di medicinali imperfetti. È stato, ha avuto il patteggiamento, che tutti noi pensiamo che sia un riconoscimento di colpa per avere un po' di meno pena, ma la dottoressa Margit Friri, qui magistrata illustre qui presente, mi ha spiegato che col patteggiamento non si ammette assolutamente colpa e soprattutto non si deve risarcire colui che è stato danneggiato. Quindi ha avuto meno pena e cosa ha fatto? Ha detto: andiamo in Georgia e la cura proibita continua lì e lui è il supervisore responsabile. Io sono curioso anche delle cose che paiono banali, magari non lo sono. Allora, vita sedentaria, vado in fretta per non annoiare. È dimostrato che un movimento minimo realizzato ratealmente è più benefico dal punto di vista salutistico che l'incontro, l'agonismo, eccetera, anche se può essere più piacevole, ovviamente. Si è calcolato proprio stare alla scrivania e ogni mezz'oretta alzarsi 2 minuti è molto più utile che giocare a tennis un giorno sì, un giorno no. Naturalmente bisogna essere anche onesti, perché se uno vuol dimagrire, va in fitness per dimagrire, però evita la scala e anda su con quella scala mobile, allora è chiaro che in malafede già prima e spenderà i suoi soldi per niente. Il PSA, Richard Albin era candidato al Nobel, nel 70 ha scoperto il PSA, antigene di tessuto prostatico e non di cancro prostatico. Ciò significa che se è alto, elevato il sospetto viene, ma ci può essere un'elevazione anche sensibile del PSA e il cancro non c'è. Per cui, accortosi dopo di un mal uso, per cui consigliano, anche a me mi viene chiesto una volta, il mio marito ha 40 anni, è bene che si faccia già la PSA, e lui dice, di fronte a questo sfacelo concettuale, dice, il grande, sul New York Times, il grande mistero, il grande errore che ho fatto nel segnalare il PSA. Infatti, i motivi di no allo screening anticipato, che può solo portare a fare del male, è questo. La maggioranza dei pazienti con PSA alto non ha il cancro. In una quota di pazienti con cancro prostatico il PSA è normale. Parallelismo non è stretto tra livelli di PSA. Se uno è alto, questo è il cancro, non è vero. C'è, ma non è stretto. Il PSA alto in soggetti asintomatici, che non hanno, quindi viene fatto ante lettera, non hanno sintomi, viene fatto, cosa succede? Che salta fuori un piccolo livello, comporta approfondimenti, biopsie non necessari, fonte di ansia e di qualche rischio. Tenete conto che la biopsia prostatica è fatta con 12 prelievi in una castagna, nel volume di una castagna, quindi 6 di qua e 6 di là, che buchiamo alla cieca. Molti campi della prostata evolvono senza, sono maligni istologicamente, ma evolutivamente non sono maligni, e nelle autopsie fatte in soggetti morti a 100 anni hanno trovato tutti tanto di prostata nell'autopsia, quindi sono morti di tutt'altra cosa. Questa è una notizia tanto per rompere il ghiaccio, per farvi sorridere: si è scoperto, ma questo è vero, che i cani che hanno 200 milioni per centimetro quadro di cellule olfattive contro quelli nostri, che sono 4 per centimetro quadro, quindi 200 milioni, voi capite, ecco perché i cani quando sentono, Bene, si è visto che questi soggetti, questi cani, dotati di questo potenziale olfattivo enorme, hanno la capacità di individuare con l'individuo in piedi, vestito, con le braghe su, le mutande su, nasando l'individuo a livello giusto, hanno capacità di fare diagnosi di cancro di prostata o di escludere il cancro di prostata. E guardate, questo è difficile. La sensibilità, che significa test positivo in malati che hanno il cancro, è del 98%, cifra inaudita, e quelli che hanno il test negativo in sani, che non hanno il cancro, 96%. Cioè non sbagliano quasi mai. Il problema è che non possiamo pensare a un ambulatorio vicino al parco di urologia che abbia dei cani che gli nasi nella braga. C'è scritto pancreatico. Ah, dove? Prima? Precedente, sì. Hanno sbagliato a scrivere. Ah, cancro postale, scusa. Scusate. Questa è una cosa importante, poi forse possiamo anche finire. Il ricovero è una violenza che noi subiamo, la subiamo, la vogliamo, in stragrande maggioranza dei casi. Il ricovero, soprattutto il ricovero d'urgenza, lo viviamo inconsciamente in una maniera angosciante. Questa angoscia fa sì che a breve tempo dei pazienti ricoverati, nel 20% dei pazienti con più di 10 anni, si torna ad avere una necessità di un altro ricovero, ma non per la causa che ha generato il primo ricovero, per un'altra cosa. Per esempio, quelli che avevano scompenso cardiaco, al secondo ricovero lo avranno soltanto per il 37%, quindi vengono ricoverati per più di 70% di patologia diversa. Lo stesso per la polmonite è lo stesso. Informare i pazienti di questo significa indurli a pensare bene prima di farsi ricoverare. perché anche il secondo ricovero avrà le conseguenze del primo. E perché succede questo? Per questo c'è una coabitazione forzata, siamo tutti un po', se non siamo proprio crociati, abbiamo i nostri spazi, il nostro gabinetto. Coabitazione forzata, l'intimità è disturbata. Se mi viene da fare aria la notte non la fate, perché vicino c'è quello lì che è la moglie che non sta vicino a lui. La toilette è condivisa, quando non è, spesso non è nella stanza, adesso comincia a essere spesso in corridoio. La ritmi alterati di sonno, si mangia a ore impossibili, alle 11, alle 5, è tutto sgangherato. Questo sgangheramento dell'orologio biologico che noi tutti, di cui noi tutti siamo contrassegnati, comporta questa sindrome. Ancora questa ve la devo dire. Allora, gli studi clinici controllati non sono una fisima di noi medici, sono cose piene di difetti, ma anche con un enorme pregio, quello di stabilire al massimo del possibile dell'oggettività umana l'efficacia e di escludere al massimo di possibile i danni. È nato anche in questi ultimi tempi qualche articolo sulla meraviglia che i farmaci che si danno ai bambini e che si danno alle donne in età sessuale attiva, cioè fin tanto che possono figliare, sono farmaci sperimentati solo nell'uomo. Ma la donna ha un metabolismo completamente diverso da quello dell'uomo, è variabile rispetto all'uomo. E i bambini poi hanno un metabolismo enormemente diverso. E noi usiamo in questi, perché la legge ce lo impedisce fino a poco fa, di sperimentare in bambini e in donne sessualmente, in fase sessualmente attiva. I bambini hanno un minimo di tutela, perché il bambino, il buon pediatra, cosa fa? Dà il farmaco in rapporto al peso corporeo. Quindi già, ma negli adulti non c'è, per cui troviamo l'avvocatino che è alto 1,60 e pesa 60 kg e il facchino di porto che pesa 120 kg, gli diamo sempre la stessa dose. E per le donne è la stessa cosa. Adesso comincia a esserci consapevolezza di questo, però ricordiamoci che senza l'avallo di studi clinici controllati cascavamo veramente male. E vi faccio vedere due esempi raccapriccianti. Nel 61 un pediatra dice: ma che strano, non ho mai visto nascere tanti bambini senza braccia e senza gambe. Poi si chiamerà focomelia, perché gli abbozzi degli altri assomigliano a quelli di una. Bene, questo signore qua è stato seguito, perseguitato, ha cercato di farlo fuori, insisteva, che c'è, finalmente sono accorti che aveva assolutamente ragione. Perché era usata la talidomide, che si usava molto spesso nelle donne che volevano stare più tranquilli, prendevano un sedativo, ma il bambino nato da questa madre sviluppava la focomelia. Senza studi di efficacia controllata, che sono pur aperti a errori, avevamo avuto migliaia di, in Italia meno, ma anche in Italia, roba di questo tipo. Guardate che roba. Dramma per lui, per quando moriranno i genitori, chi si occuperà, eccetera, eccetera. Guardate che roba. Dopo le focche, no? Le focche. Medicina alternativa, una diapositiva sola, non preoccupate. Allora, 5 riflessioni, secondo me, forti come le bombe atomiche. E vi segnalo l'età diversa di coloro che hanno formulato queste riflessioni e la personalità diversa. Quindi non è quelli del club, tennis club di Gries, hanno una, no? Uno è Kant, e siamo nel 1700, tra 1700 e 1800, uno è Einstein biologo, uno è Einstein, non vi dico chi era, Garattini lo sapete, e l'Aren, filosofa storica ebrea che è andata in America ed è morta da poco. Allora, il primo dice, quindi gente che sa pensare, che non ha preconcetti e che dà un giudizio generale, io li ho utilizzati per darveli a voi in funzione delle alternative. Chi si avventura oltre le colonne d'Ercole e della ragione finisce nel naufragare nell'inconsistenza. Le verità accettate senza raziocinio possono fare più danno degli errori. Gli esperimenti con cui supportare una nuova teoria devono essere riproducibili anche da altri. Non posso dire che mi sono il più bravo, devo controllare o fare una cosa. Garattini, la disciplina che voglia essere credibile e rispettabile deve essere pronta a correggersi di fronte a nuove evidenze. Esempio clamoroso che non finirò mai di dire. quando si è scoperto le ricoperte del pylori, la medicina tradizionale ha cambiato completamente e ha buttato a mare tutte le porcherie che faceva prendere prima senza efficacia assoluta, tale uno che era il gastrosempio per gli effetti collaterali, le altre erano tutte inattive. La medicina ha capito, ha cambiato, adesso non c'è nessuno che se ha le ricoperte del pylori non fa l'eradicazione. L'ulcera sta scomparendo, i giovani chirurghi non sanno più operare l'ulcera. Nessuna medicina alternativa nei trattati classici o negli aggiornamenti ha mai modificato la terapia dell'ulcera. So, mi pare che, non so se ai processi un'evidenza così servirebbe Marco, ma non so. Allora, finalmente, ed è l'ultima, voi sapete giorni fa, proprio per quel film eccetera eccetera, comunicato stampa del 2016. Pietro Grasso, Presidente del Senato, sicuramente persona autorevole e onesta, prestata alla politica, ma è stato magistrato che ha corso il rischio di morire, Walter Ricciardi, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. No a campagne antiscientifiche contro le vaccinazioni. Inaccettabili i danni sulla salute provocati da teorie improvvisate e respinte dalla comunità scientifica internazionale. Allora uno, alla fine di questa chiacchierata, dice, beh, finalmente hanno capito anche le autorità. Ma vi dico che le conseguenze concrete di queste posizioni fino ad ora sono quasi zero e l'esperienza passata mi dice che resteranno zero per molto altro tempo. Un'alternativa unica, valida, accettabile, anzi consigliabile, è quella di dirvi grazie per l'attenzione e ho finito. Saranno presenti nella settimana di presentazione dell'attività dell'associazione, della neocostituita associazione scrittori e altoatesini. Grazie. Qualche domanda è ammessa? Sì. Anch'io. Il problema è che mi sembra. Perché ho la macchina. No, questo è l'ultimo libro che ho fatto.